GR24, il sole 24 ore. Fiat della Valle Marchionne è ancora polemica. Li hanno colti con le mani nel sacco, dice il patron di Tots. Monti, chiesto nessun aiuto e non li avrebbero avuti. Il governo accelera sul decreto corruzione, alcune parti politiche troppo inerti e in Lazio l'UDC ago della bilancia. Frana alle Cinque Terre sulla Via dell'Amore, feriti 4 ragazzi australiani, 2 gravi. Sisma in Emilia, l'ira dei sindaci, non abbiamo visto un euro. Buongiorno dalla redazione, ancora una buona giornata ad Anna Migliorati. L'avete sentito, dunque, il governo accelera sulla corruzione, mentre in Lazio la situazione è tutta da definire. Il premier Monti parla anche di Fiat, dove a riaccendere la polemica ci ha pensato però questa mattina Della Valle. Ne parliamo tra poco però, perché prima ci sono aggiornamenti sulla frana alle Cinque Terre. 4 i feriti, 2 sarebbero in grave condizioni, come avete sentito nei titoli. Sono ragazzi australiani, ma a raccontarci l'accaduto è stato poco fa il sindaco di Rio Maggiore, Franca Cantrigliani, al microfono di Clemente Lepore. È partito una, due, tre fette di roccia, perché lì le rocce sulla Via dell'Amore sono messe a fogli, a libro, hanno piegato gli sbarramenti artificiali chiaramente creati per la protezione della strada, hanno piegato le potrelle, le reti, hanno rimbalzato e sono caduti sulla Via dell'Amore mentre stava passando un gruppo di australiani, e sono rimasti feriti 3 donne e un uomo. C'è un po' di allarme anche dopo l'alluvione dell'anno scorso? Ma no, perché noi l'anno passato non eravamo stati toccati dall'alluvione. Qui è accaduto un effetto della siccità, non delle piogge, come invece storicamente è sempre accaduto. Una cosa abbastanza anomala. E un altro incidente a Roma, dove 2 operai sono in gravi condizioni per l'esplosione di una caldaia all'interno di una scuola elementare. L'incidente è avvenuto in via Rossellini durante alcuni lavori di manutenzione. Niente aiuti alla Fiat, lo dice il premier Monti, ma dopo l'azienda toccherà ai sindacati confrontarsi con il governo, mentre torna a parlare anche Marchionne. Allora, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Governo dunque in pressing sulla casa automobilistica e sull'indotto. L'interesse dell'esecutivo è quello di coniugare l'autonomia dell'ingotto con gli interessi occupazionali che l'azienda garantisce al momento nel settore, di qui la convocazione dei sindacati mercoledì al Ministero del Lavoro in via Veneto. Quanto ai retroscena dell'incontro di sabato di Monti con i vertici Fiat, il premier oggi ha fatto capire no ad aiuti finanziari all'azienda, ma ascoltiamo Monti. Ci sarà un grande impegno da entrambe le parti, perché ciò che si è convenuto di desiderare trasformi realtà, ma concessioni finanziarie non sono state chieste, e se fossero state chieste non sarebbero state accolte. Monti parla anche di corruzione e spiega l'inerzia di una parte politica è comprensibile ma non scusabile, ma a parlare questa mattina di Fiat è proprio Marchionne, che dice conferma i target per il 2012 e l'impegno della Fiat in Italia. L'azienda nel suo complesso non è malata, spiega, ed è sana ed è in ottima forma. Il governo aggiunge poi la D dell'ingotto deve fare però la sua parte per rimuovere quelle zavorre che stanno ancorando il nostro paese al passato. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, ma intanto a rinfocolare la polemica ci ha pensato però Della Valle da Milano, Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Diego Della Valle torna a polemizzare a distanza con i vertici Fiat, chiacchieroni che raccontano banalità, li ha definiti il patron di Tots in un convegno all'Università Bocconi di Milano, al quale è presente anche il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera. La Fiat è stata presa con le mani nella marmellata, ha detto ancora Della Valle, sentiamolo. L'indisponenza viene dal fatto che ci si vuole prendere in giro anche con argomenti, voglio dire, neanche tanto convincenti. Il futuro degli operai della Fiat non è più corrispondente a quello che questi signori vogliono fare nel paese. Questi avevano già deciso di andarsene un pezzo, meno 2 anni fa. Oggi è successo solo che li abbiamo presi con la mano nella marmellata mentre se ne volevano andare. Non ha citato direttamente Fiat, ma il riferimento era chiaro anche un altro dei relatori, il numero 1 di Telecom Italia, Franco Bernabè. Non è che ci siamo lamentati dicendo che le cose in Brasile vanno meglio, ha detto Bernabè, ci siamo dati da fare per trovare una soluzione adeguata rispetto ai problemi italiani. Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi sta partecipando alla tavola rotonda del convegno Bonino in un precedente incontro ha fatto riferimento alla vicenda Fiat, augurandosi che il Lingotto continui ad avere un ruolo di primo piano nel manifatturiero italiano. Ritengo che un grande paese manifatturiero non sia tale, ha aggiunto Squinzi, senza la presenza di una forte industria automobilistica. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Maria Luisa Pezzali. Sentivamo l'altro monito di Monti riguardo alla corruzione. Monti ha parlato di parti politiche inerti e non scusabili, e il riferimento è innanzitutto al caso Lazio, dove potrebbero arrivare le dimissioni del governatore Polverini per evitare che il Consiglio regionale cada comunque per abbandono delle opposizioni. Tutto potrebbe decidersi domani, e allora sentiamo Elisabetta Fiorito. Se ancora non si scioglie il caso Polverini, ma probabilmente si arriverà alle dimissioni della Presidente del Lazio, determinante la decisione dell'UDC che in giunta regionale governa insieme al PDL. Lorenzo Cesa ha convocato proprio per domani l'ufficio politico del partito per assumere una decisione definitiva sulla situazione politica della Regione Lazio, e nel partito prevale l'orientamento di considerare conclusa l'esperienza. Il ritiro della fiducia sarebbe rimandato solo a seguito di un altro pacchetto di tagli. I dimissionari in tanti PD o di USL hanno lanciato una fiaccolata per chiedere le dimissioni della governatrice. Le firme sono a quota 26 e per arrivare allo scioglimento del Consiglio ne mancano 10, appunto sarebbero determinanti quelle dell'UDC. Intanto ieri Renata Polverini è stata ricevuta dal Premier Mario Monti, mentre questa mattina il Presidente della Camera Gianfranco Fini chiede alla politica uno scatto di rene e di mandar via le mele marce, mentre nel centro-sinistra interviene Emma Bonino, che ricordiamo fu candidata come governatrice insieme in contrapposizione a Polverini, e accusa il PD di averla isolata come candidata perché si interponeva a quella che viene definita, dice Bonino, la grande spartizione inevitabile. Per il momento qui da Roma è tutto, per studio. Grazie. Roma oggi è una città dove il tessuto sociale è irritato per gli scandali. Sono state intanto le parole del cardinale vicario Agostino Vallini parlando oggi al clero romano nella Basilica di San Giovanni in Laterano. E la magistratura va avanti, l'inchiesta fa il suo corso in queste ore. Il principale protagonista della vicenda è oggi davanti ai magistrati a Viterbo, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, è cominciato da circa un'ora l'interrogatorio di Franco Fiorito, la procura di Viterbo lo sta ascoltando come persona informata dei fatti in relazione ad un secondo filone di inchieste a un reato connesso a quello a lui contestato, deve dare spiegazioni sulle fatture depositate alla Pisana per i relativi rimborsi dal consigliere regionale viterbese e suo successore alla guida del gruppo PDL Francesco Battistoni. Alcune di quelle fatture, secondo Battistoni, sarebbero state falsificate aumentando di decine di volte il loro importo, un presunto dossieraggio per screditare. Ed è di poco fa la notizia che Battistoni, attraverso i suoi legali, sta depositando una denuncia per diffamazione nei confronti di Fiorito. Sale dunque il tono dello scontro all'interno del PDL laziale, settimana decisiva sul fronte giudiziario anche per l'inchiesta che vede Fiorito indagato per peculato. La procura di Roma vuole verificare perché le erogazioni dei soldi ai gruppi della regione siano lievitate senza giustificato motivo da 1 milione del 2010 a 14 milioni del 2011, denaro finito nelle casse del gruppo PDL e di tutti gli altri partiti. Intanto il Batman di Anagni è ricomparso ieri in televisione sugli schermi della Sette per ripetere la sua difesa. Forse avrà gestito i soldi con leggerezza, ma non mi sento un ladro, e da Roma è tutto. Il timore però è che lo scandalo si allarghi ad altre regioni. Allora sentite che succede in Liguria, isolata ed estromessa da ruoli chiave nel PDL Liguria in regione, appunto perché aveva voluto vedere il dettaglio del bilancio del partito prima di firmarlo. È la storia di Raffaella Della Bianca, ora nel gruppo Riformisti Italiani in Liguria. L'ha intervistata Cristina Carpinelli. Allora, io ho chiesto i dettagli di tre voci di spesa. Una era avere il dettaglio sulla voce del personale, le consulenze, le spese di rappresentanza e le spese generali, e ho chiesto questo dettaglio ripetutamente. Questo dettaglio non mi è stato dato, e non soltanto, ma da allora è iniziata un'azione quasi punitiva nei miei confronti, perché sono stata tolta d'ufficio dalla vicepresidenza attività produttive. Sta di fatto che ci fu una serie di omertà. Parliamo di cifre molto diverse rispetto a quelle della Regione Lazio, perché i fondi dei gruppi regionali Liguri sono cifre inferiori, però è un meccanismo che non va bene, cioè bisogna fare un salto culturale nel nostro paese. Il punto di Stefano Folli. Quella del Lazio sembra una farsa che ormai è arrivata all'ultimo atto. La Presidente Polverini può solo rassegnare le dimissioni e provocare di conseguenza lo scioglimento del Consiglio. Avrebbe dovuto farlo la settimana scorsa, ma ma da stamane ogni momento è buono per compiere un estremo gesto di dignità. Del resto lo stato d'animo del Presidente del Consiglio è chiaro e abbiamo sentito anche la voce del Presidente dei Vescovi, Bagnasco. In più ci sono le dimissioni dei consiglieri d'opposizione e segni di sgretolamento nella stessa maggioranza. A cominciare da quell'azzeramento chiesto dal sindaco Alemanno, il quale si è reso conto, ma in grave ritardo, che il veleno dello scandalo razziale travolgerà tutto, in primo luogo la sua fragile giunta comunale. Insomma, il quadro è definitivamente compromesso ed è tempo che sul disastro cali la tela. Invocare l'autonomia regionale a questo punto non è solo patetico, è delittuoso, perché il patrimonio dell'autonomia è stato distrutto da questo pessimo film. Noi voltiamo pagina. Dopo 13 anni torna il concorso nella scuola, fra mille polemiche. In diretta allora Maria Piera Ceci. Sì Anna, sono giorni davvero molto agitati questi per gli aspiranti prof. Domani infatti in Gazzetta Ufficiale ci sarà nero su bianco l'ABC del concorso per la scuola, di cui però il ministro Profumo ha abbondantemente parlato la scorsa settimana, quindi praticamente si sa già tutto. 12.000 posti in palio, domande solo online, per un costo totale dell'operazione di circa 1 milione di euro. Chi potrà partecipare al concorso? Beh, chi è già inserito nelle vecchie graduatorie, diplomati delle SISI, laureati entro 2001-2002 per le lauree quadriennali oppure 2002-2003 per quelle quinquennali. Ma sabato i precari sono scesi in piazza per protestare contro quello che definiscono un concorso farsa. Della stessa opinione il segretario della CGIL Scuola Domenico Pantaleo, sentiamolo. Questo concorso è inutile. Da un lato è aperto solo agli abilitati e quindi sono gli stessi che sono iscritti nelle graduatorie, una platea che esclude i giovani, escludi coloro i quali stanno facendo il TFA, e quindi non capiamo la razionalità di questa operazione. È uno spreco di risorse, non si capisce la ratio se non una pura propaganda del ministro Profumo. Poi siamo convinti che bisogna rivedere le politiche di reclutamento, ma la prima condizione è che si garantisca la stabilità per i precari che sono all'interno delle graduatorie. Ecco, una polemica dunque destinata a durare. Fra poco alle 13.30 a scuola in controluce. Oggi parleremo proprio di insegnanti, irrimediabilmente disillusi o idealisti, ci chiediamo. Lo spunto ci viene offerto da un film che è uscito proprio questo weekend, Il rosso e il nero di Giuseppe Piccioni, nei panni di un giovane insegnante, Riccardo Scamarcio, che ci racconterà fra poco la sua scuola, anche con qualche sorpresa. Poi sentiremo le opinioni degli insegnanti, quelli veri invece, con cui abbiamo guardato il film. Dunque, scuola in controluce alle 13.30. Di tutto questo abbiamo già parlato e allora riprendiamo dai numeri, quelli che dicono che il 2013 sarà anno di crescita. Si dice certo il Premier Monti, che questa mattina, come dicevamo, è intervenuto ad un convegno dell'Ocse. Secondo l'Istituto, le riforme strutturali avviate dal governo consentiranno all'Italia di ripartire, ma con qualche avvertimento. No, alla tentazione di tornare indietro smontando le riforme compiute. E il messaggio rivolto all'Italia è scandito due volte di seguito dal segretario dell'Ocse, Ángel Gurría. Numeri alla mano. Le riforme strutturali, dice, avviate dal governo Monti, consentiranno all'Italia un aumento del PIL del 4% nei prossimi 10 anni, più 0,4% all'anno sulla base delle sole riforme annunciate finora. Riforme che costituiscono un contributo decisivo per l'Europa. Gurría ha poi sottolineato che la disoccupazione giovanile in Italia, 3 volte superiore alla media dell'11%, oltre il 35%, non è un numero. Si tratta di sogni spezzati, dice, di perdita della fiducia, a volte di disperazione. E Gurría punta dritto sul provvedimento anticorruzione, una delle raccomandazioni chiave contenuta nel rapporto Italia, dare slancio alla crescita e alla produttività, rapporto messo a punto dall'Ocse e diffuso oggi a Roma in occasione dell'apertura della conferenza internazionale sulle riforme strutturali in Italia. Aziende e cittadini, si legge nel rapporto, vedono nella corruzione un fattore aggravante che contribuisce alla crisi del debito. Questa questione è una priorità per l'attuale governo. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A 4 mesi dal terremoto in Emilia sono 45.000 gli sfollati. A mancare all'appello i fondi per la ricostruzione. Il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, al microfono di Luisa Perona. Non arrivano neanche a noi. I fondi per autonoma sistemazione passano dalla regione, o vengono passati direttamente nei conti correnti di chi ha fatto la domanda, o altrimenti passano dalla regione al comune, che automaticamente li mette dentro ai conto corrente, quindi praticamente da noi non sostano neanche. Per quanto riguarda la ricostruzione delle case e delle imprese, vanno attraverso le banche e non attraverso il comune. È vero una cosa, è vero che abbiamo bisogno sicuramente che i tempi siano molto più corti nell'erogazione di questi contributi. Dove sta l'intoppo? Ma l'intoppo sta nel fatto che siccome ne abbiamo pochi di soldi, tutti vogliono cercare di spendere al meglio e quindi fanno 20.000 controlli. Io vorrei che ci fosse sicuramente il controllo più veloce, ma un controllo serve, perché abbiamo visto che da altre parti quando si fa veloci, poi dopo i soldi vengono fatti a ricostruire le piscine di qualcuno. E altre speranze disattese a 2 anni dall'omicidio Vassallo, nessun arresto, nessun processo. Era un uomo libero, Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, ucciso dalla camorra il 5 settembre 2010. Vassallo era un uomo che aveva nella cultura dell'ambiente un punto di riferimento importante e inossidabile, e lo si capisce anche nella sua ultima intervista rilasciata ad un'emittente salernitana poco prima di morire. Ma sì, lo Stato, in effetti noi lavoriamo per lo Stato, noi siamo una delle poche realtà in Italia che arricchiamo lo Stato, perché noi investiamo, facciamo, costruiamo questo porto, ci indebitiamo per costruire questo bellissimo porto, alla fine proprietario lo Stato. Eppure sono passati poco più di 2 anni dalla sua uccisione e di Vassallo, sindaco, quindi uomo delle istituzioni, nessuno parla più. Dopo il clamore dei primi mesi, ora su quell'omicidio di Camorra regna l'assoluto silenzio. Forse perché quei 9 colpi di pistola che spensero la luce agli occhi di Vassallo celano qualcosa di più grave di una ritorsione di spacciatori. Forse perché nasconde qualcosa di indicibile. Vassallo affrontò da solo i trafficanti. Non ci fu collaborazione con la locale caserma dei carabinieri nelle indagini sullo spaccio. Anzi, secondo il figlio di Angelo, Antonio Vassallo, troppi uomini delle forze dell'ordine giravano intorno a quella vicenda, personaggi il cui ruolo non è mai stato chiarito dalle indagini. Restano dunque ancora oggi quei sospetti eccellenti sull'omicidio di un uomo coraggioso e giusto. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono 7 gli alpinisti ancora dispersi sotto la valanga che ha travolto una spedizione sul monte Manaslu in Nepal. Le vittime sarebbero 9, tra queste l'italiano Alberto Magliano, l'alpinista Simone Mo. Lo ricorda al microfono di Dario Ceccarelli. Sì, sì, era molto esperto e Alberto lo conoscevo perché in una delle tappe delle sue Seven Summit, così si chiamano la salita delle 7 cime più alte di tutti i continenti, eravamo assieme e nella fattispecie eravamo in Antartide a salire la montagna più alta. Però l'avevo visto in Himalaya, avevamo anche arrampicato assieme, anche all'Everest. Soprattutto chi non è della montagna, chi non la conosce bene, rimane sempre un po' sconcertato davanti a queste tragedie. Sono abituato a fare difese d'ufficio e quindi neanche questa volta, lungi da me dal volerla fare. Questa del Manaslu è probabilmente una delle più grandi fatalità e quindi imprevedibili che sono successe nella storia dell'alpinismo degli ultimi decenni, perché qui la valanga si è staccata in piena notte, ha travolto 2 campi, campo 3 e campo 2, che da sempre, dalla storia dell'Himalayismo, si mettono in quei punti che sono riparati, e la valanga è stata provocata dal crollo di un scracco. E ora invece il calcio. Oh mia bella Madonnina, che te brille. Allora, sempre con noi Dario Ceccarelli. E Dario, la musica dice già tutto. Sì, mi vengono le lacrime agli occhi. No. Dopo 4 giornate Milano piange, perché il Milan è a 9 punti dalla Juventus, l'Inter a 6, ma il peggio è che non si vede la luce. A San Siro sia rossoneri che nerazzurri hanno fatto 0 punti, sempre persi. L'Inter ieri contro il Siena ha dovuto arrendersi dopo tanti inutili attacchi che hanno avuto l'unico risultato di indebolire la difesa. Il Milan ha perso a Udine nella terza sconfitta in campionato. Insomma, è una situazione veramente difficile, da anni non si ricorda. I due allenatori sono sempre più in bilico, soprattutto Allegri, già coinvolto in un imbarazzante litigio con Inzaghi. Stramaccioni sta appena appena un po' meglio, la sua Inter ha un sacco di attaccanti ma ha un centrocampo e difesa come un colabrodo. Sono due crisi diverse dovute al fair play finanziario ma anche alla mancanza di progetti credibili. In particolare il Milan, che venduti i suoi gioielli, si ritrova all'improvviso con giocatori ordinari. Ci vorrebbe un gioco straordinario, ma Allegri purtroppo ha dato solo un gioco ordinario. E allora vedremo che succederà. C'è un'altra questione che riguarda il mondo del calcio. Per noi la questione è chiusa nell'interesse della pubblica incolumità. Sono le parole invece del vicario del prefetto di Cagliari, Carolina Bellantoni. L'ha intervistato Adriana Fracchia. Lo sentiremo alle 14 con Carlo Genta. Tutti convocati. GR24 invece termina qui. Ancora un saluto da Anna Migliorati, Fabio Cantadori in regia. Con GR24 ci risentiamo alle 14 in punto. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buongiorno da Marta Cagnola e benvenuti alla seconda edizione del GR Spettacoli. Modern Family e Homeland sono i vincitori della 64esima edizione degli Emmy Awards, assegnati questa notte al Nokia Theatre di Los Angeles. Statuette anche per i divi del cinema prestati al piccolo schermo come Julianne Moore, miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Sarah Palin in Game Change. Wow, I feel so validated because Sarah Palin gave me a big thumbs down. La stessa Palin ha dimostrato l'efficacia della mia interpretazione, ha detto l'amore, soprattutto perché l'ha giudicata con due pollici versi. Kevin Costner è premiato nella stessa categoria al maschile per Hatfields and McCoys, che ha visto anche Tom Berenger premiato come miglior attore non protagonista di una miniserie TV. Il corrispondente femminile è andato a Jessica Lange per il thriller American Horror Story. Il box office italiano, dopo aver sbancato negli Stati Uniti, debutta vincendo anche in Italia Magic Mike, il film di Steven Soderbergh sul mondo degli spogliarelli maschili, che ha scalzato dal podio Prometheus. Il film di Piccioni, Il rosso e il blu, è al settimo posto, unico tra i primi 10 e soprattutto è secondo per media per copia. Ne parleremo tra poco anche in Scuola in Controluce. Parte questa sera su Canale 5 Striscia la Notizia a condurre la 25esima edizione del TG satirico, che quest'anno ha il sottotitolo La voce dell'insolvenza. Saranno Ezio Greggio e Michelle Hunziker. La cosa bella è che comunque avere la possibilità di essere in una trasmissione e far parte di una trasmissione che è una certezza per gli italiani. Ci sono poche certezze che abbiamo ancora, almeno nell'intrattenimento, arrivare a casa, sedersi a tavola come facevo anch'io quando non ero ancora socia di Ezio, e avere la certezza di avere casa, cioè Striscia la Notizia, è bello. Un interesse particolare verso le persone più sfortunate e anche verso zone d'Italia che non erano ancora state tanto coperte. No, sì. Erano coperte, ma dovevamo mandare alle volte in certe regioni inviati che venivano da altre aree, da altre zone, e invece adesso stiamo cercando di trovare, forse qualcuno abbiamo trovato, lo sapremo nelle prossime settimane, appunto inviati che possano andare a colmare queste lacune. Intanto ieri ottimo risultato su Rai 1 per la Formula 1. Per il Gran Premio di Singapore il 36,88% di share. Rai 1 si è aggiudicata anche la prima serata con la prima parte della fiction Caruso, la voce dell'amore, con 5.463.000 spettatori e il 22,89% di share. E torniamo quindi alla fiction, che ha un suo festival a Roma dal 30 settembre. Le novità della Roma Fiction Fest sono state presentate dal direttore Steve Della Casa. Grandi anteprime internazionali, attori noti in tutto il mondo come Gillian Anderson, la rossa di X-Files. Ci saranno tutti i grandi nomi della fiction italiana, da Raul Bova a Giuseppe Fiorello, da Luca Argentero a Vittoria Puccini a Gabriel Garco. Ci saranno le anteprime di tutte le serie web che stanno impazzando un po' in rete in tutto il mondo, che saranno sicuramente il futuro della fiction, e ci sarà anche un grande omaggio a quattro signori del teatro italiano che hanno lavorato in televisione, quindi Franca Valeri, Loretta Goggi, Gigi Proietti e Giorgio Albertazzi. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. E per il GR Spettacoli è tutto da Marta Cagnola, ancora l'augurio di una buona giornata.